Pensa se uno potesse tornare indietro nel tempo, prendere tutti i momenti neri e dolorosi e rimpiazzarli con qualcosa di meglio. Ricordo ancora chi ero ieri, chi ci avevo accanto. Sembrano fotografie su sto pavimento. Il boom boom cia, qua mi salva dai problemi, dai pensieri, quando faccio riflessioni su me stesso. Eravamo Adamo ed Eve, tu mi tratti in tentazione. Che coglione che sono stata a dartene occasione. Quelle labbra, quella voce, quei capelli, un corpo che non può ispirare qualcos'altro oltre che la passione. Ridammi il cuore che mi serve, altro a cui pensare, dei problemi a cui badare, da amici da consolare. Non sei l'universo, sappilo, tu mi hai rimpiazzata come niente fosse, anch'io imparato a rimpiazzare. Tornassi indietro, quei momenti non li vorrei più. Tutti sanno che mi incazzo se mi viene un déjà vu. Tu come sei, ma non più come vorrei. Scordati di questa voce, resta sola, marcire laggiù. Calma apparente, tutto si ferma. Di ogni ricordo, che cosa resta? Ora basta, lasciami solo. Ma per quanto provo, qua non si dimentica. Brucio il passato, la sua voce resta. Nel mio viaggio, quando ti ho persa, hai preso tutto in un momento. Ora mi rimane solo un foglio ed una penna. Da suo ricordo, nel suo passaggio, più vado avanti e più mi porta giù. Caduta libera, in un miraggio, vedo momenti che non voglio più. Flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback. Lasciami andare, in attimi precipito, come equilibrista in bilico sopra un filo. Spesso cado ed è quasi tipico, se qua i miei ricordi fanno da inchiostro quando scrivo. Autolesionista il dolore, una calamita, dopo troppo il cuore, forse l'ha capito. Stupido rimane chiuso senza darmi vita, e se trovo chi lo cura dopo scappa con l'antidoto. Stanco, sul foglio mi stendo adagio, caduta dal mio cielo eri una stella di passaggio. I momenti che mi inseguono poi insegnano che per ricordare qua non serve la memoria ma il coraggio. Quando avevo più bisogno tu sei sparita, senza ragione mi hai ingannato e non capisco come. Con ogni nota cicatrizzo ogni ferita, mia salvezza anestetizza e dimentico anche il tuo nome. Da suo ricordo, nel suo passaggio, più vado avanti e più mi porta giù. Caduta libera, in un miraggio, vedo momenti che non voglio più. Flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback. Lascio ricordo del suo passaggio, più vado avanti e più mi porta giù. Caduta libera, in un miraggio, vedo momenti che non voglio più. Flashback, flashback.